ever was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Andiamo con le notizie. La prima ha un titolo davvero inquietante. Togliete i libri alle donne, torneranno a far figli. C'è un articolo che era presente qualche giorno fa su Libero. E, c'è scritto: dibattito sulla natalità. Camillo Langone, il genitore e il lavoro che gli italiani non vogliono più fare. Bisogna mantenerli a vita. Il lavoro che gli italiani non vogliono davvero più fare non è lo spazzino e il panettiere. Il lavoro che gli italiani non vogliono davvero più fare è il genitore. Si può capire. Non esiste oggi lavoro più gravoso e meno remunerato, anzi più tartassato. Una volta i figli piccoli erano braccia per i campi e quelli grandi erano bastoni della vecchiaia. Adesso tocca mantenerli vita natural durante, come impone la Corte di Cassazione. L'obbligo di versare il contributo per i figli maggiorenni cessa solo quando il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza economica. Ma non può essere solo questo a provocare lo boom della popolazione e il boom dell'immigrazione. Ma qual è la cosa più inquietante che dice Langone? Dice, leggo testualmente, che gli studi più recenti denunciano lo stretto legame tra la scolarizzazione femminile e il declino demografico. La Harvard Kennedy School of Government ha messo nero su bianco che le donne con più educazione e più competenze sono più facilmente nubili rispetto a donne che non dispongono di quell'educazione e di quelle competenze. E il ministro conservatore inglese David Willetts, scusate se l'ho letto bene o l'ho letto male, comunque questo qua, ha avuto il coraggio di far notare che più istruzione superiore femminile si traduce in meno famiglie e meno figli. Il vero fattore fertilizzante è quindi la bassa scolarizzazione, e se vogliamo riaprire qualche reparto maternità bisognerà risolversi a chiudere qualche facoltà. Allora, al di là della misoginia di un articolo di questo tipo, però è uno specchio dei tempi. Cioè, la reazione non passa soltanto attraverso le leggi, non passa soltanto attraverso l'abbattimento del welfare, non passa attraverso le elezioni di papi che sono o di una destra o dell'altra destra, ma passa anche attraverso i dibattiti pubblici sui giornali su temi di questo tipo, che influenzano chiaramente l'opinione pubblica. A parte il fatto che il tema della scolarizzazione di massa è un tema, è stato un tema sentitissimo e che è stato il cavallo di battaglia dei socialisti, per esempio, dell'Ottocento, del primo del Novecento, nella speranza che un'istruzione di qualche tipo, una scolarizzazione di massa, portasse se non altro alla comprensione dei meccanismi di questa società. Ma poi, nei riguardi delle donne, passiamo proprio a discorsi di misoginia molto pesante. Allora, il fatto che riescano a passare temi di questo tipo e diventino tema di dibattito è particolarmente grave. C'è una nota da fare a margine, che Langone si dimentica che se le donne fanno figli o non fanno figli non dipende dai libri, non dipende dall'educazione, ma dipende dalla situazione socio-economica, perché in effetti lui tra le righe l'ha accennato all'inizio dell'articolo dicendo che una volta i figli erano braccia. Finché l'economia ha bisogno di un'alta natalità, imporrà e spingerà verso una soluzione di questo tipo. Quando le braccia non servono più, come nel nostro mondo occidentale, la natalità si abbassa, quindi non è un problema di il problema culturale è una conseguenza del modello socio-economico. Il modello socio-economico neoliberista vuole far tornare la donna a sostituire il welfare, quindi a casa, e quindi spinge di nuovo sul ruolo materno. C'è una piccola notizia, scusate ma io oggi sono senza voce, quindi voce bassa, c'è una piccola notizia che riguarda il redditometro. Allora, voi direte: che cosa c'entra il redditometro con il femminismo? E invece c'entra per un motivo. Allora, prima lo status sociale dei cittadini più o meno ricchi veniva determinato attraverso degli status symbol, cioè se avevano la macchina di un certo tipo, se avevano la barca, se avevano i cavalli da corsa e robe affini. Adesso il nuovo redditometro che cosa va a indagare? Va a indagare il rapporto tra il reddito del cittadino e le spese sostenute. Cioè, se c'è squilibrio tra le entrate che ha uno, che il cittadino o la cittadina ha, e le spese sostenute, scatta l'indagine della finanza. Questo però a qualsiasi livello, cioè non a livello ricco o meno ricco, a qualsiasi livello, perché significa che nel reddito familiare o mononucleare, eccetera, c'è qualcosa che non va. Sì, è vero che scatta ad ogni livello, però di fondo, vabbè, un'impostazione di questo tipo sicuramente non mette in discussione la distribuzione della ricchezza, nel senso che non è che viene messo in discussione il fatto che guadagni di più e sei ricco, e quindi esiste il ricco ed esiste il povero. C'è solo un maggior controllo che sicuramente poi riguarderà le classi dei lavoratori. Certo. Nel senso che poi naturalmente quelli che c'hanno la fa fabbrica, hanno sicuramente poi le varie escamotage per conoscenze e capacità per sottrarsi a queste cose, al controllo. E comunque c'è anche un diverso modo di schedare e controllare il cittadino e la cittadina, perché è una schedatura a tutto campo, cioè vengono messe in discussione, comunque sotto lente di ingrandimento, tutte le spese che una o uno fa, quindi è il controllo della propria vita ed è una cosa molto grave. Però io penso che da un lato c'è anche da dire che secondo me c'è il rischio di che questo tipo di atteggiamento porti anche la colpevolizzazione di tutti quelli che hanno un lavoro a nero, diciamo, e no, non per scelta più delle volte, che comunque chiaramente quasi mai. Per questo dico, quindi, che chiaramente si trovano comunque ad avere un reddito che purtroppo non è tutelato, e quindi chiaramente non possono giustificare. No, e quindi voglio dire, anche questo va detto, cioè non fare discriminazioni porta anche a questo, e quindi E comunque anche questo tipo di impostazione comporta un'altra faccenda molto grave, che è il tipo di approccio nei confronti del cittadino e della cittadina. Cioè, non è il cittadino, non paga un errore, uno sbaglio, una colpa, un reato, ma viene indagato preventivamente su quello che potrebbe fare, o comunque viene chiamato a giustificare in anticipo qualcosa che in effetti non ha fatto o non dovrebbe aver fatto, viene messo sotto lente di ingrandimento preventivamente. Questo atteggiamento è lo stesso che ha portato all'impostazione della detenzione per condizione all'interno dei CIE, per cui uno viene messo lì dentro per una condizione in cui si trova e non per un reato che ha commesso. Quindi non c'è la persecuzione di un atto, ma la persecuzione preventiva o la persecuzione di una condizione, e questo è uno spostamento dallo stato di diritto allo stato etico, e questo come femministe ci riguarda e moltissimo. Cry. Don't speak, no, just what you see.

Allora, volevamo ricordare che siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la trasmissione I Nomi delle Cose a cura della Coordinamenta Femminista e Lesbica. E, vi ricordiamo i nostri indirizzi. Il nostro blog è coordinamenta con due o.noblogs.org, mentre invece il nostro indirizzo email è coordinamenta sempre con due o@autistiche.org. E niente, questa seconda parte in realtà l'abbiamo intitolata La violenza delle donne sulle donne e diciamo che siamo state ispirate, se possiamo così dire, da una notizia di qualche giorno fa che proviene da Brescia, e in cui la notizia intitola del Messaggero, il 10 marzo precisamente, Brescia, donna uccisa nel sonno, la convivente confessa, ho sparato io. È stata uccisa nel sonno Marilena, 34 anni, freddata a Gussago, nel Bresciano, con un colpo di pistola dalla convivente, di un anno più anziana. È stata la stessa convivente, qualche ora dopo l'omicidio, a chiamare i carabinieri, confessando il delitto. La donna si trova ora in carcere. L'arma con cui ha commesso l'omicidio era detenuta regolarmente. I vicini hanno riferito di aver sentito la coppia litigare nel corso della notte. Abbiamo deciso di affrontare un tema, diciamo così, importante e spinoso come la violenza delle donne sulle donne, perché già quando un anno e mezzo fa abbiamo fatto l'opuscolo come coordinamenta contro la violenza maschile sulle donne, abbiamo cominciato a discutere anche su questo, tant'è vero che nell'ultima pagina maniera molto sintetica avevamo cominciato a nominarlo e ad affrontarlo. Ci sono stati degli episodi di cronaca che diciamo ci hanno riportato l'argomento di attualità, e allo stesso tempo ci sono anche tutta una serie di sollecitazioni che ci sono venute dall'esterno, perché per esempio, dico una sciocchezza, in ufficio da me continuamente sento dire anche le donne sono violente, quando ci sono i femminicidi per esempio, quando ci sono gli stupri, quando viene agita violenza contro le donne da parte degli uomini, perché ricordiamoci sempre che la violenza, tutti i casi, la maggior parte dei casi di violenza la fanno gli uomini sulle donne, però in tutti questi casi si sentono circolare frasi del tipo anche le donne sono violente, poi sul lavoro sono le più cattive, sono loro che educano i figli quindi è colpa loro, hanno in mano la scuola e quindi è colpa loro, e via dicendo. Quindi ci siamo trovate, abbiamo sentito molto forte la necessità di indagare un po' questa che viene definita violenza delle donne sulle donne. E quindi sì, parlando di violenza delle donne sulle donne, abbiamo buttato giù insomma una serie di riflessioni e di punti che vorremmo cominciare ad approfondire, poi vediamo se riusciamo ad approfondirli tutti oggi o comunque poi ne parleremo nelle prossime trasmissioni. E partendo proprio dalla notizia che leggeva prima Laura della donna uccisa a Brescia, uno dei punti su cui ci siamo soffermate riguardo la violenza delle donne appunto sulle donne è il rapporto all'interno della coppia anche omosessuale, dove comunque possono ripetersi gli stessi meccanismi che ci sono all'interno delle coppie eterosessuali e quindi possono comunque esserci delle gerarchie di potere esercitate nei confronti della compagna più debole in questo, praticamente questo rapporto. Si ripetono i meccanismi dominante e dominato della coppia eterosessuale che a parte il fatto che secondo me le dinamiche all'interno della coppia di questo tipo sono sempre figlie della coppia eteronormata, cioè è un rispecchiare rapporti della coppia eterosessuale, perché di fatto noi siamo condizionate e comunque impostate dalla società patriarcale, noi ci portiamo dentro la codificazione che la società patriarcale ci ha inserito, per cui è difficile uscirne fuori, sì, anche nella caratteristica della coppia, nel senso del possesso e dell'esclusività che riguardano il rapporto di coppia. L'amore romantico, insomma, che sì, comunque infatti, si porta dietro un po' di questi, no? Questi ruoli che in fondo anche l'altra volta insomma ne parlammo a questo proposito, quindi proprio forse l'idea della coppia che si porta dietro una serie di ruoli che è difficile scardinare a prescindere poi appunto da quali siano i sessi, se vogliamo dire così, o i generi insomma per essere più precisi, delle persone, individui che ne fanno parte, insomma. Quindi infatti nell'opuscolo noi già quando l'abbiamo fatto avevamo scritto che era importante cercare di scardinare il rapporto di potere all'interno dei rapporti affettivi e il concetto di famiglia, il concetto stesso di coppia, sia etero che non, perché è un microcosmo in cui si riproducono le dinamiche di sopraffazione, perché i valori patriarcali, quelli che ci sono stati inseriti dalla società patriarcale, sono fortemente introiettati. Il concetto, come diceva Laura prima, il concetto stesso di coppia monogamica di fatto è un valore introiettato ed è un valore della società patriarcale, cioè non è un tipo di impostazione proprio di rapporto affettivo che risponde a canoni che servono a questo tipo di sistema. Sì, ecco, poi un altro punto di cui volevamo parlare è invece la violenza delle donne che hanno un ruolo di potere e che lo esercitano quindi nei confronti anche di altre donne. Eh sì, perché avevamo pensato, cioè quando abbiamo affrontato l'argomento della violenza delle donne sulle donne, abbiamo cercato di vederlo a tutto campo, cioè non soltanto nei rapporti affettivi interpersonali, ma a cominciare da quelli che sono i meccanismi che nella società comportano dei momenti di violenza o della violenza che perdura nel tempo, della violenza attraverso dei meccanismi ufficiali delle donne sulle donne, quello che stava dicendo Elena infatti. Question there, baby. Do you know I'm headed off for war? Got my question there, baby. You know I'm headed off for war. parlando di donne che hanno ruoli di potere, naturalmente facciamo riferimento a donne che sono nelle istituzioni, le donne in divisa, ma anche sui posti di lavoro, le donne che hanno un ruolo da dirigenti, che sfruttano la loro posizione nei confronti appunto a scapito di altre donne, e questo naturalmente ci sembra è molto grave, e per questo ci sembra molto lontana dalla nostra analisi qualsiasi riferimento a un'emancipazione fine a se stessa, che poi in realtà non prende in considerazione a quello che per noi invece è necessario, cioè l'aspetto di classe. E beh, certo, la violenza, diciamo che le donne delle istituzioni o le donne che hanno un ruolo esercitano sulle altre donne è particolarmente grave, perché esercitandola sulla società tutta, per esempio le donne delle istituzioni la esercitano però in particolare sulle donne, perché loro sono anche loro genere oppresso, però si prestano alla perpetuazione dell'oppressione sulle altre, che non hanno raggiunto una gratificazione personale, un ruolo all'interno di un sistema a cui loro si sono adattate e di cui hanno accettato i valori. Quindi è un'oppressione doppiamente grave, doppiamente pesante, come quella del proletario in divisa che picchia il manifestante. È un tradimento di classe, un tradimento di genere. Un altro punto per quindi analizzare la violenza delle donne sulle donne è la violenza che è proprio insita in alcuni rapporti prettamente femminili, che non fanno che perpetuare l'oppressione patriarcale. Uno di questi ruoli è il ruolo di madre, quindi il rapporto che c'è tra una madre e una figlia, così come quello tra insegnante e allieva. E, per quanto riguarda proprio invece il rapporto madre-figlia, quindi la famiglia, Laura aveva un aneddoto. No, volevo solo dire che avevo letto appunto l'altra volta che in realtà il termine famiglia deriva da famiglia e a sua volta da famulus, cioè lo schiavo domestico, perché proprio appunto diciamo che originariamente l'idea era che all'interno della famiglia ci fossero anche gli schiavi comunque che dormivano all'interno della famiglia sotto lo stesso tetto, quindi insomma è sempre stato un certo rapporto di potere all'interno della famiglia, insomma, da che... l'istituzione stessa che è impostata su un rapporto di potere, su un rapporto gerarchico, diciamo così, tra i vari membri di cui ne fanno parte, un microcosmo che ripete la società. Per esempio il rapporto madre-figlia è particolarmente importante perché di fatto la madre è catena di trasmissione dei valori dominanti, cioè è attraverso la madre che viene impostata la nuova nata, è la madre che dà l'imprimatur e gli dà le caratteristiche, gli trasferisce le caratteristiche che vuole questo sistema. Certo, noi stiamo facendo una generalizzazione, diciamo, speriamo e ci auguriamo che alcune tentino di sottrarsi e che sottraendosi cerchino di portare avanti discorsi diversi, però siccome non è mai l'impegno personale che determina il cambiamento della società, è il cambiamento strutturale che porta a modifiche nei rapporti, per cui il rapporto madre-figlia in effetti è un rapporto in cui alla madre è stato delegato il compito di costruire la figlia. Sì. No, proprio a questo proposito mi è venuto in mente che l'altra volta andai a un convegno che era sul, diciamo, sul cervello biologico e quello culturale, insomma, e che c'era questo psicologo che ci ha tenuto molto a fare tutta una discussione sul fatto che qualsiasi disturbo di personalità, se noi vogliamo considerarlo tale, comunque, insomma, secondo lui derivava dal fatto che questi poveri bambini alla nascita non avevano avuto una madre in grado di fare questo rispecchiamento, ossia quindi di avere, insomma, non lo so, emotivamente, di far capire le emozioni, le espressioni facciali. Quindi, voglio dire, senza chiedersi perché poi una madre che fosse avesse avuto, anche fosse stato plausibile questa cosa, perché poi questa madre avrebbe dovuto avere un atteggiamento del genere? Quindi, voglio dire, senza andare alle cause, ma sempre questa colpevolizzazione verso la madre, che non solo nell'istruirlo, ma ancora prima, nel farlo nascere, già aveva questi suoi problemi. E quindi, voglio dire, questo fatto che dici della trasmissione dei valori, cioè viene addirittura data anche all'interno proprio delle istituzioni tipo scientifico, c'è moltissimo questa cosa di come la donna venga utilizzata appunto proprio come se fosse il male supremo da cui deriva tutto. Cioè, la scienza non è neutra, non è asettica, no. Non è neutrale, ma è di parte. Sì, sì, sì. E no, quindi oltretutto ne veniamo fuori doppiamente, doppiamente male. Cioè, da una parte siamo strumentalizzate, dall'altra colpevolizzate. Sì. Cioè, doppiamente usate in questo modo, no? Diciamo che c'è anche un altro meccanismo molto importante da tenere in considerazione, e che è quello del diciamo, quando dicono la scuola è in mano alle donne, è vero, perché l'87% degli insegnanti è donna nella scuola. Di conseguenza noi come genere oppresso dovremmo dire: beh, meno male, perché così trasmettiamo di loro. Quindi invece il fatto che la scuola sia effettivamente anch'essa catena di trasmissione di valori dominanti e sia assolutamente partecipe del progetto sociale patriarcale e capitalista, in questa occasione neoliberista, ci fa capire quanto le donne siano strutturate e quanto sia difficile la strada per la liberazione, scardinare i meccanismi con cui siamo impostate. È un lavoro molto difficile che viene fuori soltanto da una presa di coscienza collettiva, almeno secondo me. Cioè il lavoro, la presa di coscienza individuale può essere, cioè, chiaramente sempre importante, però la presa di coscienza collettiva e quindi la traduzione in progetto politico è l'unica strada che noi possiamo attuare. Quanto siano introiettati i valori patriarcali, da quanto sia attraversato il movimento, anche il movimento dal sessismo, e quanto sia importante affrontare questo argomento anche negli ambienti e nelle realtà sia femministe sia di compagne e compagne, ci viene da un documento che alcune compagne di Bologna hanno mandato sulla lista femminista Sommosse, proprio in un resoconto su delle cose che sono accadute in ambienti di movimento. Lo leggi tu? Sì, allora. Il resoconto di alcune del Fronte di Liberazione Femminista e Lesbico di Bologna sui fatti accaduti all'Iqbal. Il Fronte di Liberazione Femminista e Lesbico è un collettivo di compagne che da dicembre 2012 ha deciso di intraprendere un percorso antisessista, partendo dal sessismo presente nel movimento, a seguito di diversi episodi che si sono succeduti nel tempo e che ci hanno trovate impreparate. Questo collettivo è nato all'Iqbal, uno spazio presente a Bologna da 30 anni, dove diversi gruppi hanno trovato spazio per assemblee e iniziative. Sapevamo sin dall'inizio che sarebbe stato difficile agire e farsi ascoltare dai compagni e dalle compagne non interessate a questo percorso. Sapevamo di essere semplicemente tollerate. Durante i nostri incontri siamo riuscite a discutere a volte fino alle 3 di notte. Evidentemente c'era la voglia di tirare fuori una montagna di questioni in attesa di essere affrontate. Decidiamo subito di fare come prima cosa un manifesto contro i molestatori da appendere sui muri del posto. Nel frattempo una delle compagne viene molestata verbalmente con tanto di pacca sul culo da un assiduo frequentatore dello spazio non militante. La compagna in questione ne parla al collettivo femminista e propone la lettura di una lettera proprio la sera in cui avrebbe dovuto cantare con il gruppo del ballo il 2 febbraio. La lettera era semplicemente un invito a cambiare atteggiamento, una comunicazione ironica che tra l'altro era in difesa dell'Iqbal. Era una linea morbida e non di attacco verso lo stronzo. Decidiamo anche di informare quelli che sarebbero stati al bar quella sera a gestire la serata e di non comunicarlo al collettivo di gestione dello spazio, anche perché ufficialmente si era dichiarata antisessista, decidendo che quelli del bar si dovevano occupare di cacciare i molestatori. Sabato 2 febbraio siamo state attaccate in modo bestiale da diversi compagni e compagne nel momento in cui abbiamo comunicato al bar le nostre intenzioni. Sono volate accuse e offese. L'ex presidente, che prima era un appartenente all'Arci dello spazio, amico del molestatore, ha messo in dubbio la parola della compagna molestata, anche se era presente la sera della molestia. L'ha accusata di aver dato troppa confidenza allo stronzo e ha minimizzato il tutto. Un'altra compagna anarchica è passata direttamente alle offese. Stronza, che cazzo dici, ma vi siete chieste perché è successo a lei, non a me? Insomma, un muro di cieca ostilità. Il molestatore è stato difeso fisicamente da alcune compagne, nonostante rivendicasse i suoi comportamenti e tentasse di riproporli in quel momento. Noi compagne siamo uscite fuori, il gruppo ha iniziato il concerto come se nulla fosse successo, appoggiando con il suo silenzio le parole del suo leader. Chi non crede nell'Iqbal può andare via, e lo stronzo è rimasto dentro finché un suo amico non l'ha portato via. Il mercoledì successivo ci siamo presentate al collettivo per tentare un dialogo, ma il tentativo è stato vano, anzi siamo state sottoposte a processo. L'assemblea è stata introdotta dall'ex presidente dello spazio, che candidamente ha dichiarato di aver invitato molto democraticamente lo stronzo a intervenire in sua difesa. Ha ammesso anche di aver detto che la compagna molestata aveva dato troppa confidenza. Nessuno ha commentato questa posizione inaccettabile. Nessuno e nessuna ha commentato questa posizione intrisa di sessismo, quanto lo potrebbe essere la difesa dell'avvocato di uno stupratore in tribunale. È bionda, avvenente, aveva la minigonna, se l'è cercata. La maggior parte degli interventi ha messo in discussione il metodo e la reazione della compagna. E cosa ancora più grave, durante tutto il corso dell'assemblea, un gruppetto di amici e di amiche del molestatore hanno continuato a insultare, interrompere, ammiccare, fare battute insulse e a mettere in dubbio la molestia. Un gruppo di persone che nulla hanno da offrire al posto se non i soldi per le bevute. Su una cinquantina di persone presenti, solo in pochissimi si sono mostrati solidali e solo un compagno alla fine, era ormai l'una di notte, ha posto a tutti e tutte la domanda tanto attesa: come ci comportiamo ora con il molestatore? Ma ormai le bocche avevano già sparato tutto il veleno che avevano dentro ed erano quasi tutte al bancone a bere, nonostante ci fosse ancora un mezzo cerchio. A seguito di questi eventi il collettivo ha deciso di non incontrarsi più all'Iqbal, ma di continuare a trovarsi per discutere, organizzarsi e crescere al suo interno come nelle piazze. Più profonda della situazione, come le azioni da intraprendere, le costruiremo ragionandoci insieme, dandoci il tempo perché tutte possano esprimere il loro pensiero. Way over yonder is a place that I know, where I can find shelter from a hunger and cold. And the sweet taste in good life is so easily found way over. Insomma, ultime due parole sul resoconto che abbiamo letto, che poi non è molto distante dalle situazioni che viviamo anche qui e comunque all'interno, probabilmente vivono insomma tutte le compagne poi all'interno dei vari percorsi. E certo, il movimento è attraversato dal sessismo, coinvolge anche sia le compagne che i compagni, ed è molto difficile scardinare questi meccanismi. È anche molto difficile avere poi un confronto pubblico, sì, che sia realmente politico. Noi ci troviamo in continuazione ad affrontare atteggiamenti sessisti alla sede di Via dei Valci 22, quindi conosciamo bene queste dinamiche. E comunque questa che abbiamo fatto questa sera è soltanto questo che abbiamo fatto questa sera è soltanto un primo approccio. Il tempo ormai è scaduto, ci sarà la trasmissione che viene dopo di Elettrodo, prove tecniche di trasmissione, quindi siamo costrette a finire qui, però ci ripromettiamo di riprendere questo argomento perché lo riteniamo talmente importante che pensiamo sia necessario aprire un dibattito sia sulla violenza, gli atteggiamenti sessisti che attraversano le aree di movimento, sia sui meccanismi che noi come donne abbiamo